adesso basta sangue, ma non vedi, non stiamo nemmeno più in piedi, un po' di pietà. Invece tu, invece fumi con grande tranquillità, così sta a me che devo parlare, fidarmi di te. Domani, domani, domani, chi lo sa che domani sarà? Oh, oh, chi non lo so, quale Dio ci sarà? Io parlo e parlo solo per me. Va bene, io credo nell'amore, l'amore che si muove dal cuore, che ti esce dalle mani e che cammina sotto i tuoi piedi. L'amore misterioso anche dei cani e degli altri fratelli animali, delle piante che sempre che ti sorridono anche quando ti chini per portarle via. L'amore silenzioso dei pesci che ci aspettano nel mare. L'amore di chi ci ama e non ci vuol lasciare. Ok, ok, lo so che capisci, ma sono io che non capisco cosa dici. Troppo sangue qua e là, sotto cieli di lucide stelle, nei silenzi dell'immensità. Ma chissà se cambierà, oh, oh, oh, non so se in questo futuro nero buio forse c'è qualcosa che ci cambierà. Io credo che il dolore è il dolore che ci cambierà. Oh ma, oh, il dolore che ci cambierà. E dopo chi lo sa, se ancora ci vedremo e dentro quale città brutta, fredda, buia, stretta o brutta come questa, sotto un cielo senza pietà. Ma io ti cercherò anche da così lontano, ti telefonerò in una sera buia, sporca, fredda, brutta come questa. Forse ti chiamerò perché vedi, io credo che l'amore è l'amore che ci salverà. Vedi, io credo che l'amore è l'amore che ci salverà.